Che tanto lo so che sei Danilo, hai capito? Snoccio. Piccola bagarza, mamma tua! Stanotte non ti faccio dormire né te né quella bagarza, mamma tua. Hai capito? Bella quella grande bagarza, mamma tua, hai capito? Perché ti piombo di telefonate stanotte.